Take one. Work in progress. C'è un modo d'amare e c'è un modo d'odiare. I vermi nell'occhio dell'amore non voglio scopare. Ed è un wow, ed è un wow, ed è un wow, e dico wow, oh oh. Ascolta il pianto dei gatti, i bambini torturati dal dolore, corpi rotti, arti, farti a pezzi, non esitano, ed è un po', ed è un po', ed dico po', ed è un po', oh oh. Modo d'amare, un modo d'odiare. Voglio dirti una cosa speciale. Vedi nell'occhio dell'amore. Non voglio non scopare. Ed è un po', ed è un po', ed è un po'. E dico wow.